Ne stampa pochissime. E dove le tiene? Archiviate in due hard disk differenti e uno nel PC. Quelle per lavoro sì, le faccio stampare all'esterno, sì. In casa non le stampo. E ha mai utilizzato i servizi di stampa via internet? No, no, assolutamente no. Potrei essere interessato. Lei sta guardando una cornice digitale. Ne abbiamo una, stiamo vedendo un acquisto di un'altra, in un'altra posizione della casa. Le interessano le foto in 3D? Una cosa da scoprire ancora, è un pianeta che conosco poco. Le ho viste al Photoshop settimana l'altra, non mi affascinano. Sono un po' tradizionalista, mi piace la foto così com'è, no, direi di no.